Eccellenza, vado! Hai tuo piacere! Vieno e maniere, fa penitenza! Fame non ho! Oh, mi rincresce! Va di qua, esce più! Da! Va! Oh! Thank you. Thank you. chiami. Tu fino stasera stai fermo al lavoro e mi prometti, sia caso fortuna, si attreccia mio da Bruno. A pregar non verrà donna nessuno. Lo giuro, amore.

pozzo del giardino va, spolenta! Che vuol dir quell'aria prima? Questa giorni sconfitta. E sconfitta, come, come? Alla lingua. Alla lingua. Alla palle vincitor. Me la sto, me la sventura. Quel tuo pianto è la lana

salva condotto onde fuggir dallo stato con a lui partir dunque volete sì per sempre sia ben via il voler vostro Thank you. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有线频道下面的精彩节目。 Thank you. 是又到雨季了。 气氛不算融洽， 阴天下雨就是容易影响心情。 在同个屋檐下，你渐渐感到心在变化。 为什么心在变化呀？忘带伞了、啊。 汛期将至，提醒您及时关注天气预报和汛期预警，雨天减少出行，多使用公共交通，绕行积水路段，听从交警指挥，关爱生命，远离洪水，人人参与，安全度汛。 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场，也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里遇见最美的自己。北京市。